sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Barone a Salpinaz. Oggi tre dischi, diciamo che tutti interessanti, alcuni anche di alto profilo, come per esempio il primo, dal quale ascolteremo alcune composizioni, alcuni brani, è l'ultimo progetto di John Hollenbeck. Straordinario John Hollenbeck, soprattutto come musicista oltre che come batterista, è veramente un creatore di alto profilo, e qui lo vediamo con un nuovo progetto, una sorta di prosecuzione del Claudia Quintet. In questo caso il nome cambia, non è più Claudia ma George, e questo è un quartetto, la formazione è decisamente diversa, completamente diversa. Infatti la spalla, diciamo, privilegiata in questo caso è quella di Anna Weber al tenore e al flauto. Poi si aggiunge anche il contralto soprano di Aurora Neland e anche la voce, peraltro, perché le parti vocali sono anche abbastanza frequenti. Poi le tastiere, diciamo, di Chiquita Magic, quindi nomi non di primo piano a parte Anna Weber, ed è una musica molto scritta, molto strutturata. John Hollenbeck è sempre più attento alla costruzione delle strutture compositive, e devo dire che è una prosecuzione fatta con grande perizia, con grande capacità musicale, con anche, a mio avviso, un notevole risultato. Il disco è intitolato, questo primo lavoro per il gruppo George, intitolato Letters to George. Ascoltiamo queste composizioni che sono tutte firmate. Oh, questo era il gruppo, il quartetto, il nuovo quartetto di John Hollenbeck, il gruppo George, con l'ultimo lavoro Letters to George, con il quartetto composto, oltre che da Hollenbeck, alla batteria e anche altri aggeggi naturalmente, e la composizione, Anna Weber alle ance, come Aurora Nitland alla soprano e contralto e alla voce, e Chiquita Magical alle tastiere, musica molto strutturata, dove la parte predominante della struttura deriva proprio dalla scansione ritmica, dall'analisi della struttura ritmica, e la parte, diciamo, delegata all'improvvisazione è piuttosto contenuta. E viene privilegiato proprio il senso della struttura, quindi l'improvvisazione si adagia all'interno, nei piccoli spazi lasciati dalla parte strutturata. Esattamente il contrario del prossimo disco, che è un lavoro interessante proposto da David Liebman. E dei Liebman bisogna sottolineare il fatto che continua ad avere una grande vitalità, ha più o meno intorno ai 75 anni, ma continua ad avere a fare una grande attività anche di proselitismo, di insegnamento, di sperimentazione in gruppi diversi. L'ultimo filone sono delle situazioni di trio, che vengono di trio anche di piccole altre formazioni, che vengono registrate in concerto. In pratica viene lasciato allo spazio concertistico la parte della costruzione dell'improvvisazione. Qui è soprattutto l'insieme dei musicisti che è piuttosto particolare, perché oltre al suo sax soprano viene accompagnato dalla tromba di Peter Evans, che è decisamente straordinario nella sua capacità di improvvisazione strutturata. Poi un personaggio poco frequentato, che poi tra l'altro non ha certo anche molte registrazioni a suo carico, si tratta di Leo Genovese, un pianista argentino e che appunto si è trasferito a New York, dove si è fatto notare subito come un improvvisatore di gran razza, e poi un sideman sempre come dire, affidabile, come si dice, John Ebert al contrabbasso, e alla batteria Tiffany Sorey, anche questo un musicista che ha molte frecce al suo arco da parte della, diciamo, nel versante dell'improvvisazione costruita. Quindi è interessante vedere come questo concerto, praticamente un'ora e un quarto di musica, spezzata in tre parti, ma per comodo direi, perché si intitolano inizio, middle e fine, quindi non è che ci sia molta fantasia, ed è di questo ascolteremo la parte iniziale, i primi 12 minuti più o meno, proprio per dare l'idea anche di come viene gestita l'improvvisazione e di quanto sia importante, pur nella libertà assoluta dell'improvvisazione, riuscire a concepire un disegno strutturato che non si disperda in vaniloquio, in pratica, quello che si può definire tale, perlomeno. Ascoltiamo questa testimonianza interessante, intitolata Life of Smalls, è un locale, naturalmente, ed è appunto il quartetto di Dave Liebman. Thank you. Era il quartetto guidato da Dave Liebman, un quartetto all-star particolare, diciamo, riunito per l'occasione di improvvisazione totale, diciamo. Un concerto di improvvisazione con Peter Evans alla tromba, Leo Genovese alle tastiere, John Ebert al contrabbasso e Tishan Sorry alla batteria, che danno prova di una notevole capacità di improvvisazione strutturata. E passiamo ad un altro ed ultimo disco, una novità in questo caso sicuramente, che verrà apprezzata, appena uscito, quindi verrà apprezzata anche per la notevole bellezza del disco. E l'ultimo lavoro di Brad Mehldau al pianoforte, in questo caso pianoforte solo, che si cimenta nelle composizioni dei Beatles, quindi Brad Play the Beatles. E devo dire che era una cosa piuttosto attesa, non perché se ne sapesse da tempo la produzione, ma perché indubbiamente Mehldau tutte le volte che si è cimentato con dei temi dei Beatles ha dato sempre delle prove maiuscole, e quindi ben venga appunto questa occasione di raccogliere delle nuove interpretazioni, anche nuovi brani composti dai Beatles. I Beatles hanno avuto una straordinaria qualità, quella di costruire dei brani, delle composizioni che si adattano a qualunque tipo di interpretazione, si riesce a smontarle, rimontarle mantenendone la struttura, e questa è una straordinaria qualità delle canzoni dei Beatles. E adesso ricordo la prima volta che ascoltai una canzone dei Beatles registrata da Mehldau è stato nel primo capitolo del The Art of Improvisers, che è appunto del 97, quindi risale a 26 anni fa. E qui invece appunto sono altre composizioni, ne ascolteremo tre. Quello di apertura, I Am a Warless, bellissimo, anche questo si presta benissimo ad essere riletto e rivisto dal pianoforte di Mehldau. Ascoltiamo, sono I Am a Warless, il secondo è I Show Her Standing Here, e poi Baby's Back, Black. Thank you.

Questo era Brad Meldau, piano solo, l'ultimo lavoro uscito per la Nonesuch, e intitolato Your Mother Should Know, Brad Play The Beatles, quindi tutte canzoni dei Beatles, a parte una che non è dei Beatles, diciamo. Comunque un bel disco, un disco diciamo che è nelle corde proprio dell'espressività di Brad Meldau, delle parti migliori di Brad Meldau. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.